Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento. Il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo. Ogni cosa c'ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà. Vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà. Ogni cosa c'ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà. Vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà. Ci penso, questo inverno passerà.